Il venti passa ancora sotto casa, alla finestra cerco un'altra scusa per fingere che noi ci siamo ancora. E penso a te, e penso a te, e penso a te. Ora capisco cosa ho perso, tu guardi un altro sguardo perso, con quello sguardo non hai mai guardato me. Sono lontano ormai da casa, ma dov'è casa? Chiedo ancora, mille tramonti rossi sfumano per me. È tutto qui, rimango a pensare che poi in fondo siamo solo immersi in situazioni create da noi. Alla deriva ormai disperso, io sento freddo e non è inverno. Qualcosa accade intorno a me, ma è tutto qui. Tu sembri sempre più felice, io solo al mondo cerco pace. La strada è lunga e stretta e cambierò. Eppure non cambio abbastanza e rimango così. Quante occasioni che cerco e che provoco, ma è tutto qui. Sono un po' più vero e come ho fatto è un mistero. Se cambia tutto un giorno, cambio anche con te. Il venti passa ancora sotto casa, da oggi non ti chiederò più scusa, io ricomincio senza stare male. E il tempo va, e il tempo va, e il tempo va, e il tempo va. Bo bo, bo bo, bo bo bo bo. Bo bo, bo bo, bo bo bo bo. Bo bo, bo bo, bo bo bo bo bo bo bo. Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo. Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble